bene. Buongiorno a tutti, forse possiamo qui, fai aperto la finestra lì. Aperta. Dunque, la prima cosa che volevo dire è che io lunedì non farò lezione. Io avevo già fatto recupereremo la sempre la prima volta che la seconda cosa è questa, quindi avete ormai l'educazione, il testo, avete tutti? La terza cosa è che questo funziona da batteria, quindi può darsi che si scarichi qui perché si è andato in contatto, e quindi se si scarica io smetto di parlare, perché non posso parlare con lei. Parlerà lei invece. Quindi io le affido il compito di fare la lezione. Per grande onore, lei è disposta a farlo. Che dice? Non si sente in grado? Lo so, ovvio. Allora, magari dopo con gli studenti del terzo anno, lo togliamo, che tanto sono pochi. Cos'è questo? Questo è un cellulare vostro, eh? Un cellulare vostro che attenta. Allora, vi ricordate che siamo sul battello, che si chiama David Montero, perché evidentemente la lingua ha una cittadina che si chiama Montero e sapete, no? Sapete che Frederick, 18enne, sta andando lì con il cuore pieno di sussulti e di speranze, Come vi ho detto l'altra volta, vi ho fatto una considerazione su cui vorrei tornare, è questa, la cosa della commedia dell'arte, la ricordate? Cioè, sostanzialmente lui ha questa attitudine, Flaubert, a raccontare cose esattamente come uno si aspetta che siano raccontate. Tutto questo, lungi dall'annoiare il lettore, al contrario, crea un senso di straordinaria familiarità. E a questo punto vorrei ricordarvi una cosa poco nota, che era una considerazione molto fine che si faceva negli anni 70, quando la cultura francese aveva una sua entità. Ora la cultura francese non esiste più, la cultura attuale francese non esiste più per la verità, neanche la cultura inglese, la letteratura, la cultura inglese, un maître à penser, no? un pensatore, uno che insegna a pensare. Dov'è in Italia? Abbiamo in Italia? È per caso Ignazio La Russa? No, non è Ignazio. No, che mi ha dato l'esclusione. Ma cioè, ce n'era uno il cui nome dovreste conoscere quantomeno, che era Roland Barthes, che io ho avuto tra l'altro l'onore di conoscere, di incontrare personalmente, e inventò una distinzione sui testi in un libro bellissimo. Difficile e bellissimo, ma se lo trovate può essere nella baccottiglia delle cose attuali, sapete quello che io penso? Ogni volta ve lo ripeto perché diventa una specie di messaggio pubblicitario negativo contro gli sgarbi e contro tutta questa marmaglia. E il libro si intitola Le plaisir du texte, ma in italiano si trova tradotto come Il piacere del testo. L'autore è Roland Barthes e dice una distinzione molto interessante tra i text de jouissance, come lui dice, e i text de plaisir, testi di godimento e testi di piacere. L'ho sempre trovata molto utile, vita mia, questa distinzione. I text de jouissance sono testi difficili, in cui in pratica si chiede la collaborazione del lettore per arrivare a produrre, a scatenare un godimento dell'opera. I test de plaisir sono all'opposto testi che vengono incontro al lettore. Ecco, facciamo un esempio, naturalmente. E lei sa che come semplice editore non prende appunti di nessuna sorta. A lui non parla bene italiano, quindi viene semplicemente per vedermi come uomo. Non è senza che si sia pregiudicata nessuna sua tendenza specifica. Niente, è fatto come ho detto. Non dico quello che ho detto, Dunque, l'Ulisse di Joyce lo conoscete tutti, l'Ulisse di Joyce è un libro difficilissimo, è emblematicamente un libro difficile. Quello che viene dopo, che ha scritto Joyce, che è il Finnegan's Wake, è ancora più difficile, anzi incomprensibile. Ma ci sono molti libri che sono difficili. difficili sono testi di jouissance in cui si richiede tutta la collaborazione del lettore per poter capire e per poter godere. Test de plaisir è un testo al contrario che ti viene in conto. Diciamo che la letteratura moderna, salvo la solita paccottiglia che diceranno, è fatta di text de plaisir, nel senso che ti vengono abbastanza incontro. Ma insomma, un text de plaisir è per esempio Dickens, se qualcuno di voi ha ricordi ottocenteschi, no? Quelli in cui si racconta una storia senza troppi fronzoli, si va al dunque e in questo modo si cattura l'interesse del lettore. Testi facili sono quelli di plaisir, testi difficili sono quelli di jouissance. Noi ci chiediamo effettivamente una considerazione che può essere utile, se l'educazione sentimentale sia l'uno o l'altro. E allora la risposta, proprio nella sua complessità, può essere utile, perché l'educazione sentimentale è un testo apparentemente di plaisir, nel senso che ci viene incontro con facilità, e il primo modo per venirci incontro è proprio quello di far sì che non siamo stupiti dai personaggi. I personaggi sono come se recitassero una loro parte, e quindi noi sappiamo, per esempio, che, non so, il buono socialista buono, Dussardier sarà buono fino alla fine, Sappiamo che i cattivi, i mediocri, Arnoux, vediamo uno dei protagonisti, il signor Arnoux, il marito di Madame Arnoux, è un personaggio, è un farabutto sostanzialmente, un personaggio di nessuna sensibilità, un personaggio greco, e siccome la cosa che affascinava di più Flaubert, questo può dire, non era affatto la cosa. Questa è interessante, lo userò come entro al tempo. Non era affatto la cosa. Sapete che cos'è che interessava Massimo Leto? Lo interessava la stupidità umana. Questa era la cosa che lo interessava. Lei dice no? No, io ho riso perché comunque è un traguardo molto particolare. Certamente. Si racconta del generale De Gaulle, forse avete notizie di chi era il generale De Gaulle, quello che ha salvato la Francia dai nazisti nella seconda guerra mondiale, un personaggio di tutto rispetto, e la battuta che disse, perché dice bisogna, diceva il suo vero, con un suo sottoposto importante, gli ha detto bisogna, signor Presidente, spazzare via i coglioni. E lui rispose, vast programma. Perché effettivamente se uno avesse dovuto farlo complessivamente, no? Sarebbe riuscito. La stupidità lo affascina. Guardate, dico, che lo affascina quando era giovane, quando iniziava a scrivere. E poi l'ultima cosa che ha scritto, non bella tutto sommato, ma alta, notazione. Vorrei dire che non importa che tutto quello che leggiamo sia bello. Spero che non siate rivoltati da queste mie osservazioni antiestetiche. Probabilmente noi leggiamo bello. E resta inteso che l'educazione sentimentale è non meravigliosa. Ma quello che importa è che una cosa sia, se così posso dire, al di là del bello, intelligente. Il libro di cui facciamo menzione si chiama Bouvard et Pécuchet ed è l'ultimo libro di Flaubert, appunto rimasto incompiuto. È un libro sulla stupidità umana, forse non riuscito complessivamente, e direi non riuscito come tutti i libri in cui voglio dire una cosa, come tutti i libri delle persone anziane, perché oltre una certa età uno scrive bene, vedete, non quando è giovane, nonostante uno è un grande musicista, può essere come Mozart e la Mozart, ma Mozart nel campo della letteratura praticamente non esiste, perché ci vuole anni per poter scrivere bene, e poi a un certo punto tardi si smette di scrivere bene. Perché? Perché si diventa manieristi, perché si fa inverso a se stessi, perché si perde quel vigore, quello slancio che è necessario invece alla creazione, con rari eccezioni. Ma direi che, per esempio, stando ai ragazzi che seguono il corso su Mallarmé, sono vissuti poco questi, ma le ultime, ultimissime cose di Mallarmé non hanno la pienezza complessiva che hanno le cose della maturità. Ma tornando al nostro discorso, quindi, cos'è l'imitazione? È un testo che si presenta di Glezir, appunto perché i personaggi sono prevedibili. Noi abbiamo una specie di busto, c'era un filosofo, si chiamava Dewey, D-E-W, il quale diceva noi una cosa, che è un'affermazione che può sembrare un po' nel senso che appartiene a una mentalità quasi platonica. Lui dice, ma noi conosciamo quello che già conosciamo. È interessante perché quando noi studiamo, questa è un'operazione che facciamo tutti, lo fate voi per fare gli esami, e lo faccio io da tutta la vita, di tanto in tanto uno ha una specie di sussulto, nel senso che è contento perché sta comprendendo. E sarà accaduto molte volte, no? Improvvisamente dici, ma cazzo, non capisco il tubo, e poi improvvisamente ti rendi conto che perché capisci? Perché quello che stai vedendo si è inquadrato, come dire, nel tuo orizzonte di pensiero, quindi riesci a capire. Allora, questo fare dei personaggi che noi riusciamo a prevedere diventa in qualche modo piacevole e affascinante. Voi cominciate a capire adesso che tipo era lui. Questa persona, vedremo che tradisce la moglie, questa persona rozza, eccetera, eccetera. E niente, questa era la premessa che volevo fare. Che però il test de plaisir, che è l'educazione santificata, diventa test de jouissance, quando lo leggiamo come cerchiamo di leggere. Cioè, facendone venire fuori delle cose sottilissime, che certamente il common reader non legge. Non legge. Se fate leggere questo testo a una persona comune, si annoierà, non riuscirà a capire soprattutto le straordinarie bellezze che ci sono. Torniamo un attimo a quel discorso che facevamo, che è un romanziere realista, Flaubert, no? Realista vuol dire, lo sapete, la scuola, eccetera, eccetera, rappresentare la realtà, punto primo. Segnatamente la realtà quotidiana, quella delle classi non aristocratiche, perché gli aristocratici sono percentualmente pochi, ma quella delle classi borghesi, piccolo borghesi, proletari, eccetera. Due, terzo, senza che si senta la mano dell'autore. Mi sono chiare queste cose? Allora, lui sta raccontando di Frédéric. Frédéric è su un battello, ma su un battello è da solo? No. Frédéric ha stretti i soldi, come potete capire, per fare il suo viaggio, in seconda classe, naturalmente, no? In seconda classe. Non viaggia in quella che oggi degli aerei chiamerebbero la business class, perché è un ragazzo. E allora Flaubert descrive, come dire, il pubblico, non il pubblico, la gente che c'è su un battello. E guardate, girando la pagina, questo inizio ci occuperà un po' tempo, e a part quelques bourgeois, seguite da questo paragrafo, da questo capoverso, scusate, l'avete trovato? A parte qualche borghese, nelle prime, subito dopo, la pagina dopo, avete trovato? Sì, trovato? Allora, rapidi ragazzi, sempre quel problema di alzare. Veloce. Allora, sentite com'era, com'era. Avete capito bene? Allora, a parte qualche borghese delle prime, c'erano degli operai, dei negozianti con le loro mogli e i bambini. E siccome c'era l'abitudine allora di vestirsi male per i viaggi, quasi tutti portavano, sentite questa descrizione meravigliosa, vecchie papaline, o capelli stinti, magri abiti neri e lisi dallo strusciare sulle scrivanie, o redingot che aprivano le capsule dei loro bottoni per essere troppo servite nel negozio. Qui e là qualche gilet lasciava intravedere una camicia di cotone macchiata di caffè. Spille finte e erano attaccate a cravatte incenci. Sottopiedi trattenevano delle scarpe di feltro. Due o tre mascalzoni che tenevano delle canne di bambù con un gancio di cuoio lanciavano degli sguardi obliqui. E c'erano padri di famiglia che facevano gli occhiacci facendo domande, ponendo domande. Discutevano in piedi, oppure accovacciati sui bagagli, altri dormivano in un canto, parecchi mangiavano. Il ponte era sporco da gusci di noce, pezzettini di sigaro, bucce di pera, detriti di salami portati in pezzi di carta. Tre ebanisti in blusa, in calciola, stazionavano davanti alla cantina. Un suonatore di arpa in cenci si riposava appoggiato al suo strumento. Si sentiva di tanto in tanto il rumore di carbone nella caldaia, uno scoppio di voci, un riso. E il capitano, sulla passerella, camminava da un tambore all'altro senza fermarsi. Frederick, per raggiungere il suo posto, spinse il cancelletto delle prime classi, disturbò così due cacciatori con i loro cari. Fu come un'apparizione. Lei era seduta in mezzo alla panchina, tutta sola, o almeno lui non distinse nessuno nell'abbagliamento che gli mandarono i suoi occhi. E allo stesso tempo in cui passava, lei alzò la testa e lui piegò involontariamente le spalle. Quando si fu messo un po' più lontano dalla stessa parte, la guardò. Ella aveva un largo cappello di paglia con nastri rosa che palpitavano al vento dietro di lei. Le bande nere dei suoi capelli, circondando la punta delle grandi sopracciglia, scendevano in basso e sembravano premere amorosamente l'ovale del suo viso. Il suo vestito di mussolina chiaro macchiettato di pallini si spandeva a pieghe numerose. Stava ricamando qualcosa e il naso dritto, il mento, tutta la sua persona si stagliava sul fondo dell'aria azzurra. Siccome manteneva la stessa attitudine, lui fece parecchi giri a destra e a sinistra per dissimulare la manovra e poi si piantò vicino al suo ombrello, poggiato contro la panchina, e affettava di guardare il battello sul fiume. Un battello sul fiume. Mai aveva visto quello splendore di pelle bruna, la seduzione di quel corpo, quella finezza di dita che la luce attraversava. Considerava il suo cestino da lavoro con sbalordimento, come una cosa straordinaria. Qual era il suo nome? E dove abitava? E la sua vita? E il suo passato? Avrebbe voluto conoscere i mobili della sua camera e tutti i vestiti che aveva portato, le persone che frequentava e il desiderio di possesso fisico spariva quasi sotto una voglia più profonda, in una curiosità dolorosa che non aveva limiti. Questo immortale inizio è è però concepibile all'interno di questa folla vestita male. Ora, come vi dico, voi vivete in un'età consumistica, tutti viviamo in un'età consumistica, direi vero, no? E tutti quanti, quando facciamo un viaggio, non abbiamo minimamente il problema di sporcarci, nel senso che è difficile che andiamo incontro alla polvere, a meno che non vi siano viaggi particolari, eccetera, viaggiamo in treno, viaggiamo in aereo, in macchina, no? Facciamo una piccola considerazione sulle scarpe. Guardate queste scarpe, le mie scarpe sono pulite, non solo perché io le sono pulite, ma starei per dire, sono pulite perché non ci sono sporcate. Ma quando io ero ragazzo era un problema da andare fuori, perché si sporcavano facilissimamente, c'erano delle strade sterrate, c'erano delle condizioni diverse, nei viaggi ci si vestiva male. Quindi, a distanza di moltissimo tempo dall'azione indipendente dell'invasione sacramentale, c'era questa abitudine che in un viaggio ci si vestiva con le cose che avevi. E nel vestirsi male viene fuori i segni della classe bassa a cui appartieni. Perché guardate questa descrizione come è fatta. Dice che c'erano per terra, un po' lo schifo. Anzitutto andiamo per ordine, tutti avevano dei vestiti lisi. E avevano dei vestiti lisi nelle maniche soprattutto. Voi sapete che una volta c'era l'abitudine di avere negli uffici, no? Non c'era il computer, non c'era niente, le mezze maniche. Cioè c'erano delle maniche che tu ti mettevi perché stavi tutto il giorno all'ufficio, e stando tutto il giorno all'ufficio è chiaro che ti consumavi gli uomini, intendo dire, ti consumavi le maniche. C'erano delle abitudini strane, quelle del colletto, una camicia da uomo, intendo dire, non te la vedevano mai da sola, ma sempre con due colletti di riserva, perché poi tu, era una concezione, sono affascinanti queste cose, è proprio diversa anche dalla pulizia, tu una camicia la prendi e poi la sera cosa fai? La metti allo sporco, lei la tiene per 5 giorni, una camicia, no. Dopo 3 giorni la cambia, la ricambia. Una volta la pulizia era, il aggressore non si lavava mai, come sapete, ma senza andare all'aggressore, in Italia le condizioni igieniche erano completamente diverse qualche decina di anni fa, completamente diverse. Quindi c'erano i colletti che cambiavano le camicie, c'erano le mezze maniche, c'erano questi vestiti che diventavano spaventosamente lisi. Non c'erano vestiti d'estate e vestiti d'inverno, no? No, c'era un solo tipo di vestito. E quindi i belli si mettevano alla festa, alla domenica, quando nelle famiglie si andava a messa tutti insieme, no? E allora ci si acchittava bene, eccetera. Ma i vestiti brutti servivano segnatamente per i viaggi. Qui le condizioni sono deplorevoli, perché vedete, questa gente poco pulita, cosa faceva? Aveva lasciato per terra dei gusci di noce, dei pezzettini di sigaro, delle pelure di poire, peli, insomma, di pere, detriti di salame, va bene? E poi c'è molta gente varia, vi sono dei farabutti, dei grede che stanno guardando loscamente, no? Immaginate proprio una seconda classe di un treno. In Italia una volta non c'erano seconde classi nei treni, c'erano le terze classi. C'era la prima, la seconda e la terza, che avevano dei gradi di sgradimento, per così dire, finché con le terze classi, c'erano delle terze classi di legno in cui si stava impalati, duri, ecco, ed erano cose. Le prime classi erano inaccessibili, come peggio, insomma. Ma in Francia non è che è stato molto diverso il decorso, come dire, socio-economico. Frederic cammina, non fa nient'altro che camminare, perché è eccitato, perché sta pensando alle cose sue, eccetera. Entra per caso nel cancelletto delle prime e lì fu un'apparizione. Guardate questa frase, guardate la prima. Se fu un'apparizione, la vedete? La bellezza di questa frase sta nel fatto che non c'è alcuna congiunzione copulativa davanti, alcuna e. Per cui l'Alla Romano, che è la traduttrice di Einaudi della donazione sentimentale, ha messo il fu in apparizione e ha dimostrato di essere completamente fuori strada. Perché se tu metti il fu in apparizione, il Flaubert avrebbe sparato il senso di sospensione meravigliosa per cui si passa da questa descrizione di cose volgari a questa apparizione di un angelo, evidentemente viene perduto. No? Vediamo che io debba scrivere della gente che sta immersa nelle sue porcherie, eccetera, eccetera, e arriva Dio. Dio, no? Vado a capo e scrivo: discese Dio, apparve Dio. Se io metto e apparve Dio, è chiaro che lo stacco non c'è più, evidentemente. Un'apparizione. Questa parola è apparizione. Perché Madame Bernardon rimane effettivamente un quadro, non una donna vera, non un quadro. Dice Proust una cosa bellissima, che quando noi incontriamo una donna e ci innamoriamo di questa donna, poi la donna la vediamo in moltissime altre circostanze se va avanti la relazione, però noi dentro la mente abbiamo sempre il ricordo della prima volta in cui l'abbiamo veduta. C'era un signore molto colto che frequentavo da ragazzo, grandissimo psichiatra, aveva sulla scrivania, io mettete, avevo, era un ragazzo molto evoluto, e ha visto la sua scrivania, quindi una fotografia, lui avrà avuto 40 anni, cioè quindi per me è una vecchia, sono 15 anni, ma 40 anni. C'era una donna bellissima in una fotografia sul suo bureau, e allora, siccome lui mi aveva dato un pochino di confidenza, gli chiesi: ma lei ha una moglie così giovane? E lui mi disse: no, mia moglie alla mia età. Ma dico: ma questa fotografia? E lui mi disse: questo era com'era allora, quando l'ho incontrata. E allora io chiesi: ma ha mantenuto questa fotografia? Dice: sì, per me lei è sempre così. C'è una fotografia, può darti questa meravigliosa sensazione in fondo di riprodurre esattamente la sensazione profonda che noi abbiamo di una persona. Poi la persona invecchia, è piena di rughe, di tristezze, di cupezze, ma magari quel sorriso negli occhi si mantiene come allora. E quindi vorrei dire che questa cosa dell'apparizione ha un significato profondo, nel senso che poi resta per Frédéric un'apparizione. Quello che stiamo per vedere, infatti, è un quadro. Ed è un quadro di cui direi che possiamo vedere molti riscontri nella pittura dell'Ottocento. Io starei per dire, magari anche in un tempo posteriore a Flaubert, insomma, la pittura impressionista, per esempio, ci rende molte donne simili a questa signora che noi adesso vediamo. Ma guardate qualcosa di interessante: la signora è seduta in mezzo alla panchina. Quando noi ci innamoriamo, dovete sapere questo, noi ricordiamo tutto di quel momento. Quel momento ci resta impresso nella mente e non scolpito nella mente. Non solo ricordiamo tutto, ma ricordiamo anche dei minimi movimenti che facevamo noi. E quindi è come se obbedissimo inconsapevolmente a uno spirito di recitazione. Quando lui la guarda e non la vede, perché è come se fosse abbagliato dalla luce di lei. E tutto questo, al di là della forza romantica della formulazione, è di una straordinaria verità umana. Quando noi siamo innamorati di qualcuno, siamo abbagliati, cioè in qualche modo non lo vediamo, non la vediamo. Lui Lei cosa fa? Lei fa un movimento e lui fa un movimento. È molto bello vedere che gli innamorati, nel momento in cui si incontrano, è come se fossero ridotti alla loro pura gestualità e fenomenicità. Lei alza la testa, è come simmetricamente lui facesse un altro movimento, cioè quello di piegare, scurvare le spalle. Questa fisicità degli innamorati è molto importante per Flaubert, anche se, o forse proprio per questo, poi l'innamorato, la persona che tu ami, rimane semplicemente una visione. Questo è un quadro, aveva un cappello di paglia con dei nastri rosa che palpitavano al vento. I capelli neri scendevano lungo il viso, naturalmente, e sembravano premere amorosamente l'ovale del viso. Guardate questo verbo e questo avverbio, il verbo palpitare. E poi poco dopo dice che le bande dei capelli premevano amorosamente. Vedete come questa descrizione, senza che l'autore entri di mezzo, è come se questo verbo, palpitare, e avverbio, amorosamente, da soli descrivessero la natura sentimentale di questa apparizione. Perché se io vedo una persona che non amo, una donna che non amo, con il cappello e ha i nastri che si muovono, non dico che i nastri palpitano in qualche modo, è una presa di posizione, ma lui lascia che questa presa di posizione sia affidata all'avverbio, come dopo sia affidata all'avverbio amorosamente, i capelli che premono amorosamente il suo viso. È chiaro il punto? Chiaro? Se, per fare un esempio, questa ragazza che ogni tanto gentilmente si presta, lei ha dei capelli effettivamente che scendono a fianco del suo viso. Va bene? In modo non dissimile ma da fare. Non dissimile a fare. Però se io le dicessi che le sue bande nere di capelli, e di questo stiamo parlando, non mi tocchi, va bene? Le sue bande nere di capelli le premono amorosamente il viso. Se lei dicesse questa espressione, lei sarebbe un po' conturbata, dicendo, ma il professore come si permette? Ha capito? Quindi è una descrizione in qualche modo che parla da se stessa senza che l'autore debba intervenire. Vediamo. Questa donna si trova stagliata sul fondo blu. Esattamente come una persona di un quadro si trova per l'appunto stagliata sullo sfondo del quadro. Quando uno fa la corte a qualcuno, uomo con la donna o donna con l'uomo, è molto difficile che vada direttamente allo scopo. No? Lei che ne pensa? Mi sta guardando, è difficile, se ne rende conto questo. Cioè non va, hai dei dubbi su questo punto? No, cioè non è che lei vada Marco, vediamo che Marco le piace e le dice, senti Marco, vorrei risolvere questa così questo fatto, tu mi piaci, quindi vorrei andare a letto con te. In genere questo viene, cosa si fa? Si gira attorno all'argomento. E qui non soltanto lui gira attorno all'argomento, evidentemente che è lontanissimo da lui, ma gira fisicamente intorno. Cioè cerca di muoversi intorno alla donna, non si rimette da quello che fa un animale quando cerca di corteggiare il maschio, quando cerca di corteggiare la femmina, che non va dire una gira intorno alla femmina, non so se avete pratica di corteggiamento di animali, cani, gatti, eccetera. Allora lui gira intorno, poi si pianta fingendo di guardare altrove, fischiettando più o meno, no, perché quando uno è isolato cerca normalmente di dissimulare perché è qualche giorno. È timido, si vergogna, no? Io mi ricordo perfettamente che c'era una compagna mia di università che mi piaceva moltissimo e c'era un mio compagno che sapeva di questo fatto. Quando lei entrava, io, che ero molto giovane, avevo 19 anni, quindi era quella età famosa di cui erano segnalata, io entravo in uno stato di panico, insomma, non sapevo, finché lui è disastroso, ma devi significare in qualche modo, io però ero, come dire, paralizzato, intimidito dall'età. cosa che adesso non mi accadrebbe più effettivamente. Adesso direi subito, allora risolviamo la situazione adesso, immediatamente. Allora, lui, la vede. Ah, guardate l'avverbio con cui inizia questo periodo. Mai aveva visto questo splendore della sua pelle bruna. Poteva Flaubert scrivere così: il n'avait jamais vu cette splendeur, eccetera, eccetera. Mi seguite? Mettere l'avverbio in testa, cioè questa posizione prolettica dell'avverbio, qualunque in francese naturalmente, ma anche in italiano si traduce in questo modo, indica che mai è importante, lui proprio mai era riuscito a vedere una cosa così bella, eh? E guardate come parla della pelle in ordine, della pelle scura, poi della taille. Un uomo che guarda una donna, guarda il corpo della donna, questa è una cosa che non sapete ma che vi rivelo adesso per l'occasione, no? Voi pensate che guardi l'anima, eh? Avete questa convinzione? Ebbene, volevo appellarmi anche al sostegno morale di qualche maschio, non è così. Voi mi dite che ci sono delle parti del corpo che un uomo guarda di più, voi non. E non sono i piedi. Però tutto questo in un ragazzo che non ha assolutamente, romantico, che non ha assolutamente messo a fuoco le ragioni della sua, del suo desiderio, evidentemente. E si traduce nel fatto che lui pensa alla taille. La taille è la vita, avete capito? Ma la vita significa molte cose, è il su e il giù. Significa, è un modo, come dire, di persinetto che per arrivare a descrivere il corpo della persona. Per approssimazione, quindi gli piace la pelle, il corpo, indicato rigorosamente come tali, poi il terzo, gli piace, attenzione, le dita. Ma sono un punto erotico le dita? No, o sì, però dipende, perché lui è ancora molto fuori dall'eros, lui è in uno stato di pre-innamoramento totale, per cui queste dita femminili, Flaubert quando parla della Bovary parlerà delle dita della Bovary, di Emma Bovary, queste dita gli sembrano meravigliose e farà un qualcosa, Flaubert, di assolutamente strano, cioè farà un qualcosa di antirealistico sotto un certo aspetto, perché dice che le dita sono attraversate dalla luce. Ora io sfido chiunque di voi ad avere le dita attraversate dalla luce. Si può attraversare le dita? Non so. Ma il fatto di dire che le dita sono attraversate dalla luce è che tu le vedi, con la tua fantasia, le vedi come fossero diventate quasi un propagarsi della luce. La luce ha tagliato le dita. Questo uno può dirlo di una persona di cui si sta innamorando. Se io mi rivolgessi al mio amico preside e gli dicessi che le tue dita sono traversate dalla luce, vorrei sapere qual è la risposta che mi darebbe. Non so se qualcuno di voi è presente, collega che mi sta davanti, il ricercatore della stanza davanti, che si chiama Chiodo. Chi la presenta Chiodo? Non l'avete presente nessuno. Se gli dicessi Chiodo, le tue dita sono traversate dalla luce, quando è che io dico una frase del genere? Ma che cos'è che una donna vuol sentirsi dire nella vita? Vuol sentirsi dire questa frase sempre, solo che i mariti queste frasi, dovete sapere, non le dicono più, ma neanche i fidanzati. Le si dice una volta, due volte, e alla terza volta. Se tu dici, ma insomma tu me l'avevi detto l'altro ieri, che le dita erano attraversate dalla luce, beh, boh, sì, sono sempre attraversate dalla luce. A questo punto, lui vorrebbe sapere tutto di lei. In realtà, noi vogliamo sapere tutto di una persona, ascoltate, po' che la conosciamo, dopo un po' che l'abbiamo messa a fuoco, ma quando si è molto giovani, ecco perché questo libro è la storia di un giovane e non di un uomo, tutti i processi sono rapidissimi. Sapete che quando uno si innamora da ragazzo, quello deve subito sposarsi. Io mi ricordo che c'era una ragazza che scusa aveva una continuità per andare più di me, insomma. Io avevo 17 anni, lei aveva 19, e una cosa, insomma, e mi mandò una lettera. Io avevo 17 anni, che dopo quello c'era un dato bacio, tasto. E dopo quello che è successo fra noi, mi ricordo che il mio compagno di scuola sghignazzavo su questa cosa, che è successo fra noi, è un bacio tra l'altro faticoso, chiostra dei denti contro le altre, era stato assolutamente, dopo quello che è successo fra noi, dobbiamo sposarci, ossia, come sposarci? Il fatto che i processi siano così rapidi qui è perché si è giovani. E allora lui subito vuol sapere, è chiaro il concetto, vuol sapere tutto, cosa vuol dire? Vuol sapere di lei il suo nome, e poi dove sta, e poi i mobili, vuol sapere i mobili. Quando uno è innamorato è interessato a delle cazzatine della vita dell'altro, lo zio, il cugino, ho conosciuto innamorate che sapevano tutto, dei cugini di secondo grado, molto più dell'interessato, no? Mille cose, come si lavava, quelle fossero cose fatte, ma ogni dettaglio diventa oggetto lussurioso di felicità, ogni dettaglio, i mobili, dove scrivi, dove telefoni, questa è una delle cose, no? Da dove telefoni? Oh, come si investe, questa è un'altra cosa di tipica, come si investe questo? E allora la, magari la principiante dall'altra parte dice, cerca di essere più gradevole, dice, su un paio di pantaloncini corti. Ma è importantissimo sapere tutto dell'altra persona. L'ultimo paragrafo qui sotto, se pandano lo shall avant violette, traduco. Intanto c'era un lungo scialle con strisce violette che era lì dietro sulla schienale della panchina e sul bordo di rame del ponte. E questo scialle aveva dovuto molte volte in mezzo al mare durante le sere umide, scialle di legna, avvilupparle il corpo. E lei se ne era coperta i piedi e ci aveva. Ma questo sciallo, trascinato dalle sue frange, scivolava a poco e rischiava di cadere in acqua. Frédéric fece un salto e lo afferrò ed ella gli disse: «Vi ringrazio, signore». I loro occhi si incontrarono. «Moglie, sei pronta?» gridò il signor Arnoux apparendo nel palo delle scale. Ecco il contatto. Un atto gentile da cavaliere medievale nei confronti della dama. Lo scialle sta per cadere e lei lo, e lui lo raccoglie. Ma guardate il contrasto con il marito e sentite che cos'è un marito e che cos'è un innamorato. La differenza, perché il marito dice dall'alto gridandole, tanto lui invece è stato gentile, moglie, sei pronta? Prendiamoci. Quindi con il proverbio naturalmente ci vediamo.